English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Allora, questa sera Giulia l'avete sentita al telefono da Londra, quindi siamo inglesi più che mai per questa puntata di English 24 in cui parleremo della crisi finanziaria globale. Lo facciamo sulla scorta di un servizio che abbiamo tratto dal nostro CD allegato all'English 24 in edicola. Non perdiamo tempo, ascoltiamo subito il primo estratto. The global financial crisis has evolved into a worldwide recession of epic proportions. Analysts fear the sudden slump, which has followed the credit crunch, could even rival the Great Depression of the early 1930s and lead to global stagnation. But who is responsible? The bursting of the housing bubble and the collapse in confidence throughout financial markets was not caused by one individual or a single decision, so pointing the finger of blame is a near impossible task. But Times Money has given it a shot anyway. Giulia, allora, intanto si parla della crisi finanziaria globale. È così? Sì, proprio un global financial crisis e un worldwide recession, così come World Wide Web, il famoso WWW è la rete grande come il mondo, worldwide, così che questa recessione è grande come il mondo, cioè ha colpito tutti i paesi e quindi ha delle epic proportions, delle proporzioni epiche, termini un po' grossi, però in effetti non c'è paese che non abbia qualche problema economico in questo momento, quindi forse sono termini giusti tutto sommato. E devo dire che il problema è stato che tutto è stato abbastanza improvviso e imprevisto. Sì, quello famoso, questo credit crunch, pensate che qui a Londra ci sono i credit crunch menus nei ristoranti, cioè sono i menu apposta per il credit crunch. Credit crunch letteralmente è la stretta terribile del credito, lo schiacciarsi del credito, cioè il fatto che le persone che si erano troppo indebitate a un certo punto hanno visto la necessità di restituire tutti questi debiti e quindi sono rimasti senza soldi e quindi un sudden slump. Tutto questo è successo non gradualmente ma di colpo, quindi suddenly infatti vuol dire improvvisamente, slump è caduta, è proprio una caduta con è un termine anche un po' onomatopeico, con un rumore di appunto di splash, quindi una caduta rumorosa e improvvisa. E stiamo tornando con la memoria a qualche annetto fa. Sì, questo è addirittura questo tipo di worldwide recession could even rival the Great Depression of the early 1930s, quindi potrebbe persino rivaleggiare, competere con la Grande Depressione, quella che nei libri di storia viene definita appunto la Grande Depressione, che è quella degli early 1930s, cioè negli anni 30 naturalmente del secolo scorso. Stiamo parlando poi di una bubble. Che cosa c'entra questa bubble? Beh, insomma, l'abbiamo sentito anche in tempi un po' più recenti, quando abbiamo avuto la net bubble, cioè questa bolla di internet, per esempio, che a un certo punto appunto le cose si gonfiano e poi d'un colpo si sgonfiano. E questo è stato un altro problema legato al credito, che era però delle persone che si indebitavano per comprare la casa, quindi questa bolla delle case, indebitarsi per facendo dei mutui naturalmente che a un certo punto non si possono più pagare. C'è un'altra espressione che si usa spesso in questi periodi, questo collapse. Collapse of confidence, quindi ancora una volta, proprio non una caduta, qualcosa di più drastico, un collasso per l'appunto, della fiducia. Confidence appunto non è confidenza, è un false friend, ma la fiducia, tant'è che quelli che noi chiamiamo indici di fiducia in inglese sono i confidence indexes, che sono quelli appunto che misurano questa cosa forse difficilmente misurabile in realtà, che è la fiducia delle imprese, dei consumatori, che è quello che ci porta sostanzialmente a spendere. Io proseguirei con il servizio che abbiamo tratto dal nostro English 24 in edicola e ascoltiamo ancora un estratto dal servizio che ci parla della crisi finanziaria globale. Number one, Dick Fuld. Multi-billionaire and U.S. squash all-star Dick Fuld, 62, was CEO of Lehman Brothers when it went bust in September last year. Dubbed the scariest man on Wall Street, Dick Fuld is blamed for a litany of mistakes that include leaving Lehman Brothers heavily exposed to toxic U.S. subprime mortgage debt and other assets that collapsed in value in the wake of the credit crunch. His secretive work ethic, which rewarded loyalty over all else, has been criticized for silencing potential whistleblowers. In its final months, a series of interested buyers surfaced to save Lehman. But Mr. Fold would not sell at the price offered. Had he acted sooner, he would have been able to avoid bankruptcy. Allora Giulia, questo servizio cerca un po' di capire chi potrebbero essere un po' i responsabili di questa crisi finanziaria di cui abbiamo parlato poc'anzi. Si comincia a fare un primo nome. E chi è questo Dick Fold? Questo Dick Fold, Dick è molto spesso l'abbreviazione di Richard. Fold era un multibillionaire, quindi un multimiliardario in dollari, ed era anche il CEO, cioè il Chief Executive Officer, più o meno possiamo tradurre amministratore delegato, di Lehman Brothers, to go bust vuol dire esplodere, quindi quando la Lehman Brothers, come sappiamo, dando il via appunto a tutta questa worldwide recession, se n'è andata nel settembre dello scorso anno. C'è un'espressione insomma abbastanza buffa che riguarda poi Wall Street, come ne parla questo servizio? Sì, perché insomma è sicuramente ha avuto delle grossissime responsabilità, se l'azienda che lui guidava è andata a gambe all'aria ha delle responsabilità, ma prima di quel momento veniva dubbed vuol dire anche doppiare, quindi veniva semplicemente, era conosciuto come, possiamo dire in italiano, the scariest man on Wall Street, quindi l'uomo che faceva più paura di tutta Wall Street, quindi era sicuramente anche l'uomo forse più pericoloso, se vogliamo. Per quali ragioni non lo spieghiamo meglio, però sappiamo che poi ha combinato dei disastri, quindi forse avremmo dovuto avere paura di lui in quel senso. E ancora torniamo sul collasso, perché ancora questa espressione ritorna. Sì, quindi collapsed in value, quindi collassata in valore. Naturalmente la Lehman Brothers era una delle più importanti banche d'affari americane. Il collasso è stato, e proprio per questo, il collasso to go bust, il fatto che Lehman Brothers sia andata bust, sia esplosa, sia andata a gambe all'aria, ha poi provocato con una specie di circolo vizioso, come una piccola pallina di neve che è diventata una valanga, quello che sappiamo in tutte le borse del mondo. Si parla di una secret work ethic, perché? Perché sicuramente lui aveva in senso lato una sua work ethic, cioè un'etica di lavoro, un suo modo di lavorare, più che un'etica forse dovremmo dire, soprattutto he rewarded loyalty, cioè era uno che premiava la fedeltà a lui naturalmente. E quando poi è venuto fuori i guai della Lehman, naturalmente he would not sell, cioè lui non avrebbe venduto lo stesso, e tutti pensano che had he acted sooner, cioè se avesse agito prima, probabilmente il disastro che sappiamo non sarebbe successo. Avrebbe potuto fare qualcosa? Sì, un periodo ipotetico complicatissimo, non sempre in inglese vengono via, quindi had, if, che potremmo anche metterci un if davanti, if he had acted sooner, quindi se avesse agito prima, would have been able to avoid bankruptcy, sarebbe stato in grado di evitare la bancarotta. Bel tipo questo Dick Fold, ma andiamo avanti con un secondo personaggio, nel nostro CD ce ne sono molti altri, ma andiamo al numero 2 che è Hank Paulson. Number 2, Hank Paulson. If Dick Fold is responsible for the collapse of Lehman Brothers, Henry Paulson, the former U.S. Treasury Secretary, is the man who let it happen. Anatole Kaletsky of The Times says, the global banking collapse could perhaps be described as a bullet in the head, since its proximate cause was a conscious decision by the U.S. Treasury to jeopardize the stability of the world economy in pursuit of an essentially political objective, to show that the Bush administration was willing to act ruthlessly against at least one big Wall Street investment bank. Until that point, savers and investors around the world had assumed that financial institutions such as Lehman were too big to fail and would always be supported by their governments. Giulia, eccoci al numero 2, Hank Paulson. E chi è Hank Paulson? Dick è l'abbreviativo di Richard, Hank è spesso l'abbreviazione di Henry, che non è poi tanto più corto, però suona più simpatico. Quindi Hank Paulson è il former US Treasury Secretary. Sappiamo che ministro in America in realtà vengono chiamati secretary, quindi questo era il segretario del tesoro, cioè l'equivalente del ministro del tesoro, former però, cioè una volta, l'ultimo, non quello attuale. E passerà alla storia come the man who let it happen. Who let it happen, cioè quell'uomo che ha lasciato che tutto succedesse. E che cos'è questo it, questo tutto? Naturalmente quella famosa worldwide recession di cui sopra e quel collapse della Lehman Brothers e non solo di cui abbiamo sentito parlare. Perché? Appunto è questo, addirittura poi il povero Hank Paulson viene accusato di un global banking collapse, perché sappiamo che il collasso di alcune banche americane, Lehman Brothers per prima, ha poi portato questo effetto a catena e sono state poi tantissime le banche in tutto il mondo, soprattutto nel mondo anglosassone, a per l'appunto a collassare. Il bullet è un proiettile, qua cosa c'entra? Bullet in the head, nel senso che proprio una pistola, noi diciamo, non diciamo un proiettile alla tempia, ma diciamo una pistola puntata alla tempia, perché naturalmente questo possibile collasso della Lehman Brothers, come sappiamo, l'abbiamo detto anche prima, Dick Fold è stato zitto fino all'ultimo, e lo stesso ha fatto Hank Paulson. Cioè questa cosa si vedeva che stava per arrivare, era una pistola puntata alla tempia del sistema finanziario e nessuno ha tolto quella pistola dalla tempia del sistema finanziario. Anzi, questo servizio ci dimostra un po' come non ci fosse incoscienza in tutto quello che ha fatto, ma insomma una volontà precisa. Sì, quindi proprio è stata una conscious decision by the US Treasury, quindi una decisione cosciente del tesoro, che vedeva quello che stava arrivando ma non l'ha fermato, quindi ha in questo modo jeopardized the stability. Jeopardize è una parola che letteralmente vorrebbe dire geopardizzare, ma naturalmente vuol dire mettere in pericolo. Jeopardy tra l'altro è un famoso gioco a quiz che appunto è tutto fondato sul rischio, quindi tutto questo è stato fatto in pursuit of, cioè nel tentativo di perseguire un political objective, cioè c'era un obiettivo, non un oggettivo, ma un obiettivo politico in questa condotta di Hank Paulson. E perché pensavano in realtà tutti di farla franca? Sì, soprattutto non volevano dare l'impressione che il sistema americano fosse così in pericolo, quindi piuttosto lasciamo che si arrivi al momento in cui se cade una pedina si porta dietro tutto e così non si sa più bene di chi è la colpa, piuttosto che far cadere la colpa sul sistema americano, anche perché loro pensavano we will always be supported by the government, cioè i governi, gli stati interverranno sempre per evitare disastri enormi, che poi in parte è successo per alcune banche, ma per altre no, vedi Lehman Brothers. Un sistema insomma too big to fail, pensavano. Too big to fail, quindi troppo grande, troppo importante, troppo solido per to fail. Fail è fallire, anche si può anche fallire un esame, per esempio, che vuol dire essere bocciati a un esame. In questo caso naturalmente era non essere bocciati a un esame, ma proprio collassare e fallire, nel senso di non esistere più come istituzioni autonome. E salutiamo la nostra Giulia Crivelli, che questa settimana è stata in collegamento con noi da Londra. Giulia, ti aspettiamo in studio settimana prossima. A settimana prossima. Noi invece ci salutiamo qui perché è finito il nostro tempo radiofonico per questo sabato. L'appuntamento è in edicola con English 24 e con noi in radio a sabato prossimo. Da Marta Cagnola l'augurio di una buona serata.